cos'è quest'estate? Di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno, vi accompagneremo io, Deborah Rosciani e Roberta Giordano per quest'estate, ci passeremo il testimone e vi ricordo i nostri numeri 800240024 per i radioascoltatori e gli sms al 349-238-6666. E iniziamo con l'emergenza idrica, iniziamo con l'allarme lucifero in questa lunga estate calda. Renato Paone oggi ci parla che Anton Chekhov affermava che la gente non si accorge se è estate o inverno quando è felice. Poi però il giornalista del Messaggero dice anche che lo scrittore russo, per ragioni anagrafiche, non ha mai fatto il conto con le torridi estate. Estati che si stanno avvicendando, ci sono sempre più problemi di siccità e soprattutto ci sono più problemi per la rete idrica, quella lì romana. È stata scongiurata l'emergenza, è stato scongiurato lo stop, il razionamento dell'acqua nella capitale, e per parlare di questo abbiamo con noi Barbara Degani, sottosegretario al Ministero dell'Ambiente, e anche il giornalista del Messaggero Fabio Rossi. Insomma, io inizierei con il sottosegretario. È stato scongiurato il razionamento, sottosegretario, però sembra un po' una soluzione all'italiana. Di quelle, lo rimandiamo a settembre, speriamo che nel frattempo piova, speriamo che poi la gente vada in vacanza, la città si svuota, quindi il prelievo dell'acqua dal lago di Bracciano sarà comunque minore di quello che c'è stato a luglio. Beh, non è proprio così, nel senso che la situazione ha permesso di evitare il peggio, però il problema rimane e questo non deve distogliere l'attenzione da quello che rimane l'obiettivo principale. Il 4 di agosto c'è una riunione dell'osservatorio proprio per iniziare quello che si doveva già aver fatto, cioè tutelare la risorsa idrica attraverso gli investimenti che sono necessari, in particolare nell'ambito del distretto idrografico ricompreso nella capitale, che è quello dell'Appennino centrale. La cosa più importante è pensare al raddoppio dell'acquedotto di Peschiera, che è la principale fonte idrica della capitale. Poi c'è tutto il problema della dispersione. Quindi abbiamo tamponato questo problema dell'emergenza, ma il problema rimane ed è necessario e improrogabile effettuare un ammodernamento dei lavori strutturali. Un attimo, sottosegretario, allora fra poco ci risentiamo con lei, intanto diamo la linea alla regia. Ma cos'è quest'estate? E torniamo a parlare con il sottosegretario al Ministero dell'Ambiente Barbara Degani. Stavamo parlando appunto dell'emergenza idrica a Roma. Ecco, sottosegretario, lei ha detto adesso bisogna fare il raddoppio, ci sono dei lavori strutturali, ma noi sentiamo dire questa cosa da anni, e da anni la situazione nella capitale, ma come vedremo anche ci sono prelievi poi più avanti nel Po, insomma si sta praticamente verificando quello che non volevamo sentire: un razionamento possibile nella capitale, ma anche poi forse in futuro nelle altre città italiane. Beh, allora non siamo a questi livelli, però è ovvio che serve, secondo me, una corretta gestione della risorsa idrica. Cioè, il primo punto è la programmazione, e questo lo stiamo facendo. È stato riorganizzato tutta a livello nazionale, si sono fatti i distretti ed era un provvedimento atteso da tantissimo tempo. Perché questo può coinvolgere e poi fa sì che non ci siano problemi per quanto riguarda la filiera delle responsabilità, perché tutti vengono coinvolti. Nell'ambito del distretto, infatti, vengono fatti degli osservatori, questi osservatori vengono fatti più o meno a seconda dei vari distretti con una certa frequenza, alcuni con frequenza addirittura settimanale, altri con frequenza mensile, e sono presenti i ministeri competenti, quindi ambiente, infrastrutture, le regioni, il Dipartimento di Protezione Civile, gli enti di ambito, perché sono quelli che gestiscono il servizio idrico integrato, i gestori, l'ANBI e Assoelettrica. Quindi la parte, chiamiamola così, della programmazione è stata fatta responsabilmente, si è passati da 37 ambiti a 7, e quindi su questo il lavoro secondo me è stato fatto. Poi serve la filiera di responsabilità, una filiera chiara, cioè chi fa che cosa, perché anche chi decide la tariffa e quindi chi interviene poi sugli investimenti che vengono fatti ha il suo ruolo e la sua responsabilità. E infine servono gli investimenti. Su questo alcune cose sono state fatte, altre possono essere fatte. Fabio Rossi, giornalista del Messaggero, tu ti sei occupato di questo problema. Ecco, la filiera delle responsabilità, dice il sottosegretario. Ma in Italia però poi, alla fine, anche questa volta, la decisione è stata presa dal governo attraverso la famosa procedura dello stato d'emergenza. Quindi si è risolta, si è messa una pezza e tutto rimandato a settembre. Sì, alla fine è stata effettivamente l'idea, l'impressione di un grande scaricabarile. Per giorni si è rimpallata un po' la responsabilità tra il comune, che tra l'altro è proprietario del 51% di Acea, che è l'azienda che gestisce il servizio idrico nella capitale, e la regione, che invece è titolare delle concessioni per il prelievo della risorsa idrica dalle varie fonti di approvvigionamento. E alla fine sì, c'è stata una trattativa tra la regione e il governo. La regione, quindi, grazie alla copertura, diciamo, del governo, ha potuto quindi modificare l'ordinanza che avrebbe interrotto i prelievi al lago di Bracciano per motivi ambientali da venerdì sera, e quindi, diciamo, da oggi sarebbe dovuta scattare la rotazione dell'acqua a Roma, e invece questo prelievo è stato semplicemente ridotto da 900 litri al secondo a 400 fino al 10 agosto e poi successivamente a 200, per consentire quindi, come dicevate anche giustamente prima, di mettere una pezza, cioè di evitare che per agosto possa arrivare il razionamento, la rotazione dell'acqua che a Roma avrebbe interessato, tra l'altro anche ospedali, uffici pubblici, ambasciate, tutte le utenze della città, e poi sperare appunto che piova, perché altrimenti a settembre, in mancanza di un raddoppio delle infrastrutture e quindi dell'acquedotto del Peschiera, che ovviamente non può essere fatta in un mese, e la situazione potrebbe anche riproporsi, e stavolta temo con meno alternative disponibili. Ecco, sottosegretario, Fabio Rossi diceva questo: le alternative a settembre potrebbero non esserci, ci attende, come abbiamo visto, una settimana in cui le temperature nelle città sfioreranno i 40 gradi e la notte ci saranno addirittura 30 gradi. In questo caso, come vi mettete poi a settembre? Non potrete procrastinare questa situazione, quindi che cosa succederà? Come le dicevo prima, c'è una riunione che riguarda proprio l'osservatorio dell'Appennino centrale, dove ci sono ovviamente Regione, ma anche, come dicevo prima, tutti quelli che sono i soggetti della filiera, che ovviamente valuteranno le possibilità per, come lei dice, dopo settembre, nel caso che questo problema non piova, insomma, e quindi questo problema della siccità rimanga. Ci sono una serie di proposte che sono state fatte anche dal gestore, che giustamente devono essere valutate, che riguardano anche le problematiche della dispersione e anche il prelievo, dove può essere fatto la captazione. Ecco, una cosa, sottosegretario, lei giustamente dice dobbiamo fare il raddoppio dell'acquedotto Peschiera, l'Acea deve anche strutturarsi in modo tale che l'acqua non venga dispersa. Oggi però Lorenzo De Cicco sul Messaggero dice anche che c'è una bomba sul bilancio di Roma, cioè i debiti tra Campidoglio e Partecipate. Insomma, Acea e ATAC non avrebbero i soldi dal comune. In questo caso, questa filiera di responsabilità mi sembra che si stia già incrinando, ecco. No, Guardi, tutto quello che riguarda la gestione del servizio idrico integrato, al di là di quelli che possono essere i piani, come ad esempio il piano di sostituzione reti, cioè i grandi piani nazionali che dipendono dai fondi di sviluppo e di coesione, ad esempio per quanto riguarda il piano di sostituzione sono previsti 220 milioni dal 2014 al 2020, vengono finanziati, perché quando si decide la tariffa dell'acqua, c'è il costo dell'acqua, ma c'è anche il costo degli investimenti che devono essere fatti per mantenere il livello dell'acqua permesso attraverso l'autorità di prelievo, e quindi oltre alla tariffa, cioè con il momento in cui si decide la tariffa, si decidono anche gli investimenti che devono essere fatti. Questo dipende ovviamente all'interno dell'autorità di bacino, dall'assemblea dei sindaci che decidono gli investimenti e la tariffa per gli interventi. Federico Daga, come vedi tu la situazione invece nel comune di Roma sul lago di Bracciano? Sappiamo che la popolazione del lago di Bracciano è molto delusa, c'è una forte delusione per questo prelievo che continuerà in tutto il mese di agosto. Quali sono gli umori e che cosa succederà a settembre? Intanto buongiorno e grazie dell'occasione. È Federica Daga, deputata del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Ambiente della Camera. Ecco, cosa succederà a settembre? L'osservatorio che c'è dentro all'interno del distretto dell'Appennino centrale è un osservatorio che ci sta dando una serie di dati. Io partecipo come uditore, ringraziando comunque della possibilità che mi danno in questo momento, e quindi riesco a sentire quelli che sono un po' gli umori di tutte le cinque regioni che sono coinvolte in questo distretto di bacino. E non stanno bene da nessuna parte, in realtà ci sono tutta una serie di problematiche che riguardano appunto il calo che arriva al 70% di piogge quest'anno, come il fatto che le sorgenti non stiano dando più quello che era l'apporto precedente degli anni passati. Quindi abbiamo situazioni abbastanza critiche sia nelle Marche che nel sud del Lazio, che insomma in tutte le altre parti. E i gestori intervengono anche loro all'interno di questo osservatorio raccontando quelle che sono le difficoltà territoriali e quelle che sono appunto i tentativi che sono stati fatti negli anni. Il grosso problema secondo me è che comunque ci sono stati aumenti di tariffa, e comunque uno dei grandi gestori che ha fatto questa operazione è Acqua Latina, che è arrivato ad avere una tariffa di 2-3 euro a metro cubo. In realtà ha la stessa situazione di quando ha preso il servizio, quindi 15 anni fa, ed è la stessa situazione nella quale si trovano con gli altri gestori. Quindi nella sostanza, secondo me, è mancata completamente la programmazione di quelli che sono i piani d'ambito. Prima il sottosegretario parlava dei piani d'ambito che vengono decisi all'interno delle conferenze dei sindaci. Ci sono conferenze dei sindaci che, se seguite ogni anno, ripetono le stesse questioni, ripetono al gestore che è lì presente quali sono sempre gli stessi lavori che vorrebbero essere fatti nei loro territori, ma alla fine insomma si ritrovano lì da 10 anni inseriti in piano d'ambito e poi non effettivamente realizzati. Quindi secondo me è il caso anche di andare a controllare quelli che sono i piani d'ambito che vengono emanati, comunque decisi e approvati dalla conferenza dei sindaci, non è che vengono decisi completamente da loro, è un ambito decisionale un po' così, un po' non troppo decisionale, è un ambito dove si propone un qualche cosa e o lo si accetta o quello è il piatto che viene proposto, e quindi poi andare a controllare effettivamente quello che è stato fatto. Ci sono anni, io parlo a livello nazionale, dal 2010 al 2014, utili distribuiti per quasi 2 miliardi di euro dalle multiutility che trattano anche l'acqua tra i loro business. Insomma, si parla adesso di voler per forza aumentare la tariffa, di voler insomma insistere ancora sulle bollette della cittadinanza, però io direi di andare a controllare effettivamente cosa è stato fatto finora, cosa è ancora necessario fare, e fare poi un bilancio della gestione, di come è stata portata avanti finora. L'acqua è un diritto umano universale, è logico che quando qualcuno minaccia di insomma, razionare l'acqua da qualche parte, poi si scaldano gli animi, e le responsabilità devono essere prese realmente da quei soggetti che le hanno, quelle responsabilità. È inutile fare i vari rimpalli a tal punto che insomma il comune di Roma, qui si parlava appunto della questione di Bracciano, del lago di Bracciano, del comune di Roma, cioè il comune di Roma ha fatto, diciamo, la sua parte cambiando intanto quei vertici che non avevano portato avanti i lavori che avevano promesso di fare. Hanno fatto sì tanti utili, ma investendo in qualcos'altro che non erano sicuramente nelle reti, nella depurazione e fognature per le quali siamo sotto infrazione da 15 anni. Insomma, quindi c'è molto da fare. Iniziamo a cambiare questo, iniziamo a dire quali sono le problematiche, e queste persone che hanno due orecchie e una bocca comunque ascoltano, hanno fatto partire un piano di ristrutturazione delle reti. Linea alla regia. Ma cos'è quest'estate? E noi continuiamo a parlare dell'emergenza idrica a Roma. Barbara Degani, sottosegretario al Ministero dell'Ambiente, abbiamo sentito Federica Daga, allora lei la replica, perché insomma la deputata del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Ambiente della Camera l'ha attaccata, ha detto che ci sono responsabilità, e lei pure ha parlato di responsabilità, e noi sentiamo che c'è un rimpallo di responsabilità. Ma allora, rimpallo di responsabilità ci poteva essere finché i distretti non erano stati resi operativi. Adesso le responsabilità sono ben chiare: chi fa che cosa e chi spetta a far cosa è proprio previsto ed è all'evidenza, perché se l'onorevole Daga partecipa come auditore ai distretti sa perfettamente quali sono le richieste che provengono dai vari soggetti e anche quali sono le responsabilità, perché anche qui, voglio dire, nell'ambito della gestione, gestori, ci sono anche delle diversità, ci sono anche delle eccellenze a livello nazionale. Penso ad esempio nella mia regione sono stati utilizzati nuovi strumenti finanziari come gli hydrobond, che sono stati sostenuti dalla BEI, e quindi utilizzare anche nuove modalità di investimento. Qui come sempre, voglio dire, sono le persone che fanno la differenza, e quindi la qualità del servizio dipende anche da chi gestisce il servizio. Fabio Rossi, giornalista del Messaggero, abbiamo sentito quindi le due ipotesi, però anche la stessa deputata del Movimento 5 Stelle Federica Daga ha detto non piove, e quindi il problema è ovviamente l'effetto serra. Su questo effetto serra però l'Italia è completamente indietro agli altri paesi. Sì, sicuramente c'è sicuramente una mancanza di una politica adeguata che possa tentare di ovviare a quelli che sono i cambiamenti climatici. Vediamo anche a Roma, ci troviamo di fronte quest'anno a una situazione sicuramente mai vista prima. Il razionamento dell'acqua è una cosa assolutamente inimmaginabile fino all'anno passato, e probabilmente scontiamo, questo è certo, troppi anni di ritardi nell'adeguamento dei sistemi. Si parla prima del raddoppio dell'acquedotto del Peschiera della provincia di Rieti. Questa è una cosa di cui si parla da anni, di cui ci sono richieste ferme da diverso tempo, ma solo adesso, sotto la spinta dell'emergenza, si cerca di trovare una soluzione. È chiaro che questo sta creando anche a Roma, si è stata una settimana di assoluta psicosi, per giorni c'è stata anche un piccolo mini assalto ai supermercati, c'è stata una corsa all'acquisizione di acqua, quindi di risorse idriche di riserva, era un po' l'argomento del giorno. Il problema appunto è che qui tutti noi ragioniamo sull'onda dell'emergenza. Il timore, come pensando anche alle precedenti esperienze, è che se a settembre, come si spera, la situazione meteorologica cambi, quindi allontani almeno per quest'anno l'emergenza, il timore è che si possa nuovamente rinviare una soluzione strutturale, una soluzione non più procrastinabile, e che eventualmente ci potremo trovare l'anno prossimo nella situazione esattamente uguale a quest'anno, con delle risorse come penso appunto al lago di Bracciano, che però non sono sfruttabili all'infinito e che ovviamente a un certo punto dovranno essere sostituite da altre risorse strutturali, altrimenti si rischia, nel caso di Bracciano, anche un impatto ambientale molto molto grave. Sottosegretario Degani, il governo ha allo studio delle alternative. Stiamo pensando anche a delle alternative per Roma, ma anche per tutta la rete idrica italiana? È ovvio che la siccità è uno degli effetti dei cambiamenti climatici, che è speculare all'altro effetto, quello delle piogge abbondanti concentrate in un brevissimo periodo. E quindi abbiamo, e potremmo avere, dovuto al cambiamento climatico, lunghi periodi di siccità e dall'altro periodi che sono interrotti o seguiti da precipitazioni molto intense, che vanno a stressare il terreno piuttosto che a permanere nell'ambito della falda, quindi a darle nuova linfa. Quindi bisogna uscire dallo stato dell'emergenza, in questo caso con un piano nazionale di manutenzione delle reti idriche, per rendere ovviamente più efficace. Alcune parti lo sono, in altre meno, gli organismi della governance, gli enti di ambito, e poi ovviamente punire anche chi non partecipa alla filiera. Ci sono alcuni comuni che non aderiscono agli altri, quindi questi ovviamente devono essere puniti. La ringrazio, sottosegretario, per essere stata con noi. La sentiamo male, quindi la saluto. E Federica Daga, qual è la ricetta del Movimento 5 Stelle sull'acqua, visto che voi siete sempre alternativi, pensate alle energie pulite? Beh, vede, noi abbiamo vinto un referendum insieme a 27 milioni di persone nel 2011 che davano un segnale chiaro alla cittadinanza, davano un segnale chiaro alla politica. Fuori i profitti dell'acqua e fuori l'acqua del mercato. Significa riappropriarsi della gestione di questo bene, farlo con gestori anche un po' più piccoli che rientrano in quelli che sono gli ambiti di bacino idrografico, quindi andare a ecco, c'è un po', c'è stato ottimali, mi sente? Sì, c'è stato un po' di problema sulla linea telefonica, ecco, magari forse adesso la sentiamo meglio. Concetto, quello che dovrebbe fare la Regione Lazio, cioè attuare una legge che si chiama 238 per l'istituzione degli ambiti di bacino idrografico, che farebbero gestire l'acqua in un territorio un po' più piccolo e anche in senso più democratico. Questo è il primo gesto. Il secondo è quello di ripubblicizzare il servizio idrico con aziende di diritto pubblico, aziende speciali che in realtà non hanno quale scopo societario l'utile di bilancio, ma da distribuire ai soci, ma hanno quello di dare un servizio corretto alla cittadinanza. E quindi qualsiasi tipo di avanzo dell'utile andrebbe poi ad essere reimmesso in quelli che sono gli investimenti necessari. Quello che poi abbiamo anche cercato di inserire nella risoluzione depositata a giugno in Commissione Ambiente, a seguito della quale nasce l'indagine conoscitiva, insomma quella di abbiamo chiesto un maggiore controllo sull'azione dei gestori e il fatto di poter utilizzare quegli utili ante imposte che insomma vengono fatti comunque sulla gestione del servizio idrico, proprio per rimettere in piedi quelle che sono le infrastrutture dopo 15 anni che questo lavoro non è stato fatto, e questo è un piccolo passo insomma. Però è sempre una ricetta statalista quella del Movimento 5 Stelle, cioè riportare allo Stato... È una ricetta semplicemente di monopolio naturale, non può essere messo sul mercato, cioè il monopolio naturale deve essere assolutamente gestito dal pubblico insieme alla cittadinanza, con un controllo della cittadinanza. Sì, ma è, Napoli, questo è stato un refrain. Fatto e ha funzionato. No, è un refrain anche che fate sulle banche. Ripetere quello che c'è stato in passato e fare qualcosa di differente. E fare qualcosa di differente, pubblico, partecipato e trasparente. Non è assolutamente qualcosa del passato. Non assomiglia a nulla del passato. Le società per azioni di adesso assomigliano al passato. Assolutamente sì, per come vengono gestite, per come vengono prese come feudi e per come vengono trattate. Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, quindi la stessa commissione di Federica Daga. Qual è la ricetta del PD sulle... Le ricette non sono semplici. Come ricordava Federica, noi abbiamo in corso un'indagine conoscitiva, peraltro domani ascolteremo di nuovo il ministro dell'Ambiente Galletti e Utilitalia, che è l'associazione delle società che gestiscono l'acqua. Mercoledì ascolteremo il ministro Martina, perché poi anche l'agricoltura ha molto da cambiare per affrontare questo fenomeno, che non è un fenomeno di breve periodo. Io ho votato sì al referendum sull'acqua. In Italia però ci sono sia casi di aziende pubbliche sprecone che hanno grandi perdite, sia casi di aziende private pessime. Penso ad Acqua Latina, se rimaniamo in zona romana, diciamo, da questo punto di vista. Se uno va a vedere i dati, scopre che l'andamento è più geografico che non relativo alla proprietà, perché per esempio le perdite mediamente al nord sono molto più basse di quelle al centro e al sud. E poi proprio il caso Acea è un caso di scuola, perché Acea è di proprietà del comune di Roma, che ha il 51%, che l'anno scorso ha ricevuto 70 milioni di euro di utili, altrettanti sono andati ai soci privati, i manager sono nominati dalla sindaca Raggi. Quindi se la sindaca Raggi voleva di imporre ad Acea di destinare in tutto o in parte gli utili per rimettere in ordine la rete, lo poteva fare e a mio avviso lo deve fare. Ieri c'è stato un ottimo pezzo di Giorgio Santilli su Sole 24 Ore in cui spiegava un po' l'andamento di questa vicenda delle perdite di rete. Mi concentro su questo, anche se il problema, ripeto, è altro, lo ricordava la sottosegretaria Degani. Questo però è un problema, no? La perdita di rete, certo, è un problema. Assolutamente sì, anche se, ripeto, c'è un problema più generale di mutamenti climatici, di rischio di alluvioni, di incendi anche, insomma il problema è connesso di uso dell'acqua che va ridotto per esempio in agricoltura, che è un settore fondamentale della nostra economia, ma è chiaro che anche quel settore deve cambiare perché alcuni metodi di irrigazione sono inaccettabili e bisogna usare di più nell'irrigazione per esempio l'acqua che viene dagli impianti di depurazione più che l'acqua potabile. Però rimanendo al problema delle dispersioni di rete, che sono aumentate nel corso degli ultimi anni e sono sicuramente aumentate per anche una scelta sbagliata della direzione delle società che hanno preferito distribuire utili, è il caso della CEA, anziché intervenire sulle reti, e non è ovviamente responsabilità solo della Raggi che solo nell'ultimo anno ha responsabilità in materia. Il problema è capire, lo sottolineava anche, ripeto, in questo articolo molto serio e ben fatto Santilli ieri sul Sole 24 Ore, io penso che, e lo dico anche a Federica, penso che ci convenga ascoltare anche l'autorità regolatrice, che è l'autorità per l'energia elettrica e il gas, penso che anche l'autorità debba cominciare a introdurre dei criteri per cui ci siano dei meccanismi punitivi e premiali per le società che non mettono in ordine la rete, perché non è che possiamo poi continuare a campare alla giornata. Quello che è stato fatto per Roma in questo momento è una cosa probabilmente indispensabile, ma chiaramente, seppur mitigata, è una cosa che va ai danni del lago di Bracciano. Ecco, non è che si può ripetere questa storia all'infinito e dobbiamo tutti sperare che da qui a settembre ci siano degli eventi meteorologici nuovi, perché il problema oramai non è un problema di un'emergenza casuale, è un problema di una politica che va rimessa in moto. Fabio Rossi, giornalista del Messaggero, abbiamo sentito le due opinioni, no? Anche Federica Daga ha detto bisogna però controllare queste società, magari queste società devono ritornare allo Stato. Ermeto Realacci dice ma la CEA è del Comune di Roma. Insomma, c'è sempre questo scarico di responsabilità, oppure cominci a intravedere una strada per poter evitare che l'acqua sia razionata anche negli ospedali un domani? Certo, c'è bisogno sicuramente di superare lo scarico di responsabilità e di trovare un punto d'accordo comune tra le istituzioni. È appunto quello che si è visto giustamente in questa settimana, osservando anche le reazioni politiche e lo scambio di accuse tra la regione a guida PD del Lazio e il Comune di Roma a guida 5 Stelle. In effetti vi è da una parte un comune che può, tramite la sua società partecipata, spingere per un incremento dell'infrastruttura che, ripeto, assieme alla manutenzione della rete è l'unica strada plausibile per evitare in futuro un'emergenza. Basti pensare che il raddoppio della Peschiera supererebbe di ben 5 volte quella che attualmente, anzi quella che era fino a venerdì, la captazione di acqua dal lago di Bracciano. Quindi è evidente che qui avremo 5.000 litri al secondo in più per Roma contro i 900 che arrivano fino a venerdì dal lago di Bracciano, che sono scesi a 400. D'altra parte è ovvio che la regione deve facilitare questo compito di incremento dell'infrastruttura, quindi concedendole le autorizzazioni e quindi snellendo anche quello che è l'iter burocratico per la realizzazione della nuova infrastruttura. L'importante è che il conflitto politico, in questo caso ovviamente ha anche un sapore preelettorale, non sia fatto a scapito poi della sicurezza anche idrica dei cittadini, perché quello che si è visto in questa settimana è più o meno questo. Le proprietà erano di entrambi i soggetti istituzionali principali, diciamo, entrambi hanno la possibilità, lavorando insieme, di superare questa emergenza, almeno in tempi medi, ovviamente non brevissimi, nel tempo brevissimo bisogna solo sperare che piova, però c'è bisogno assolutamente di un lavoro in concerto, in sintonia, e su questo anche l'azione del governo penso che possa essere utile. Il ministro Galletti ha lavorato in questo senso negli ultimi giorni, spero che questo possa avere un seguito, altrimenti, come dicevo prima, ci rischiamo di trovarci in emergenza o a settembre o comunque l'anno prossimo, e probabilmente con meno possibilità di salvarsi in corner. Fabio Rossi, ringraziamo, giornalista del Messaggero. Ecco, una domanda per Federica Daga, deputata del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Ambiente della Camera. Abbiamo sentito il collega che diceva: attenzione, si rischia di fare poi una campagna elettorale, si avvicinano le elezioni politiche, come noi sappiamo, e si rischia di fare questa campagna elettorale proprio sui disastri di Roma. Regione e Comune, Regione PD e Comune 5 Stelle dovrebbero collaborare. Beh, guardi, il fatto è che io non trovo assolutamente sano il fatto che in questi giorni si sia fatta speculazione politica sull'acqua. È una cosa che io non approvo e non credo che sia onorevole da parte di tutte le istituzioni. C'è un attacco costante e continuo su quelli che sono i servizi pubblici locali in mano a Roma, questo è sicuro. I servizi pubblici locali nel 2011 dalla Deutsche Bank venivano valutati in tutta Italia come 150 miliardi di euro di asset finanziario. Questo per dirne una. La seconda cosa, rispondendo al Presidente della Commissione Ambiente, è che Irace, il perito geometra che avete messo voi del PD in Acea 3 anni fa a nomina Marino, era quella persona che quando gli è stato detto: guarda che il prossimo anno, è stato 2017, ci sarà una grave crisi idrica perché non state facendo lavori sulle manutenzioni idriche, sulle reti, ha fatto no con la testa e ha detto: no, non ci sarà nessun problema di approvvigionamento idrico su Roma. Ecco perché sono stati anche cambiati questi vertici, perché di ascolto non ce n'è stato per niente, e comunque finora tutti i vertici inseriti in questa azienda a nomina di destra o sinistra hanno fatto semplicemente gli interessi, hanno fatto utili per i soci privati. Questo è stato il grande danno che è stato fatto al servizio idrico integrato. Oltretutto Roma e provincia è gestita da Acea Ato 2 SPA, non da Acea Spa. Acea Spa è una holding, i suoi utili per un quarto vengono dati da Roma e provincia, dalla gestione dell'acqua. Quindi, per definire quanto rimettere degli utili nelle reti, bisogna fare la riunione prima dell'approvazione del bilancio. Non è che si fa una donazione volontaria a qualche cosa. Cioè, quello che è stato dato, quello che è stato detto poi ai nuovi vertici è stato in primis di rimettere mano nelle reti, perché il servizio idrico, prima di tutto, deve essere un servizio che funziona. Poi la parte politica si occuperà da un'altra parte, insieme a tutti gli altri sindaci della provincia, di fare quello che si chiama il tavolo della ripubblicizzazione. E lo scorso 4 di luglio una mozione dei consiglieri comunali ha promosso proprio questo, ha chiesto all'Ato 2, quindi all'ambito territoriale ottimale Roma e provincia, di discutere insieme agli altri sindaci di aprire questo tavolo di ripubblicizzazione. È molto semplice, è certo che le responsabilità ci sono, il distretto di bacino ce lo dice, ma lo sapevamo già prima. Federica Daga, io la devo... I delle reti erano già definiti, lo sapevamo già tutti quanti, quindi se durante una crisi si fa speculazione di questo tipo, io non lo accetto e non lo approvo, perché siamo istituzioni. Chiaro, chiaro. Allora, Federica Daga, Movimento 5 Stelle, però la devo interrompere perché abbiamo in linea l'ingegnere Alessio Picarelli, coordinatore dell'Osservatorio degli Usi Idrici del Po. Ecco, l'ingegnere Picarelli ci spiega invece che cosa succede sul Po, perché anche il Po ha avuto dei problemi di prelievi, però tutti i comuni si sono accordati, è così? Buongiorno innanzitutto a tutti i radioascoltatori. Sì, diciamo che la situazione del Po è una situazione critica, come era già nei giorni precedenti. Siamo riusciti però, grazie anche a un lavoro abbastanza faticoso di mediazione tra, diciamo, chi ha più acqua e chi meno acqua, a trovare una soluzione per cui abbiamo ridotto in parte i prelievi delle aree a monte per garantire un po' più di acqua nel fiume, soprattutto nella zona terminale del fiume Po, perché ormai è una cosa penso abbastanza risaputa, ma è bene ricordarlo a tutti, se il fiume Po scende al di sotto di certi livelli nella zona terminale, le acque del mare risalgono, risalendo di fatto tutto il delta rischia di trovarsi i propri rami con un'invasione di acqua salata che scaccia, diciamo così, l'acqua dolce, rendendo quindi impossibile l'irrigazione e col rischio anche di compromettere le falde sotterranee per le colture già in atto e anche per le colture future. Questo è quello che stiamo cercando di fare, cioè evitare che succeda proprio questo fenomeno cosiddetto di intrusione salina. Quanti comuni si sono accordati? Beh, più che comuni, noi parliamo soprattutto di regioni, regolatori dei grandi laghi, perché noi non possiamo dimenticare che la fortuna della penula padana è i grandi laghi prealpini che sono tutti regolati, oltre che i bacini idroelettrici montani, ma sono soprattutto i grandi laghi prealpini che hanno delle scorte d'acqua che normalmente permettono di arrivare alla fine della stagione irrigua senza problemi per nessuno, cioè distribuendo acqua agli agricoltori e garantendo anche i deflussi ambientali. Quest'anno la cosa non è andata proprio così, perché la siccità ci ha fatto partire con un fabbisogno irriguo superiore a quello che poteva essere quello medio stagionale, soprattutto per i grandi caldi, però siamo riusciti ugualmente con una gestione molto attenta e accorta e di risparmio delle risorse a chiudere, perché ormai tra poco chiuderemo la stagione irrigua, probabilmente senza particolari danni, almeno per le aree irrigate. Grazie allora ad Alessio Picarelli, abbiamo sentito il coordinatore dell'Osservatorio degli Usi Idrici del Po, abbiamo sentito anche il problema acqua dolce, acqua salata e abbiamo con noi il professor Diego Barba, docente di impianti chimici e di processi integrati acqua energie presso l'Università Campus Biomedico di Roma. Ci sono allo studio anche dei processi di desalinizzazione. In Israele sono in stato molto avanzato. A che punto siamo qui a Roma, visto che abbiamo dei problemi anche sul lago di Bracciano? Sono in linea, buongiorno. Sì, buongiorno professore. Senta, io ho sentito molte cose. Un problema fondamentale è che si stanno modificando i percorsi meteorologici della pioggia, questo è un punto fondamentale, per cui basarsi sulle speranze non funziona. Allora occorre intervenire con metodi nuovi, cioè se poi non piove che succede? Allora occorrono alcune tecnologie, ma non sono studi, diciamo. La dissalazione è un processo che insieme ad alcuni colleghi molti anni fa abbiamo messo a punto ed esportato nei paesi arabi, lì dove oggi si vedono queste grandi città. Le grandi città ci sono perché ci sono i dissalatori che fanno acqua dal mare, insomma. Adesso non è il caso di parlare di dissalatori, forse. Beh, però perché però, no? Perché visto che non abbiamo più acqua. No? Sì, no, ma cioè, però il discorso è questo. Allora, cerchiamo di tratteggiare un ragionamento. La prima cosa è prendere coscienza a livello politico che i percorsi meteorologici della pioggia si stanno modificando. Allora questo è un fatto in cui nessuno può far niente, insomma, così a priori, no? E la desertificazione sta entrando nel Mediterraneo, insomma, i nostri studi lo dimostrano chiaramente, diciamo. E anche in Italia, a macchia di leopardo, purtroppo la desertificazione sta intervenendo. Quindi bisogna fare i conti con questa realtà, superando il problema dell'aspettare la pioggia a settembre. Ovviamente questo è un progetto strategico di lungo termine, non per l'anno prossimo, insomma, però è importante, se si prende coscienza di questo fatto, pianificare interventi in cui alla pioggia si sostituisce un'acqua prodotta dal mare, ma anche un'acqua prodotta dal riuso delle acque già usate. Quindi sono le due tematiche sulle quali le tecnologie di cui disponiamo, diciamo, c'è studi ancora per risparmiare energia, ma non che ci sia da studiare nulla di nuovo per ottenere acqua dissalata dall'acqua di mare. Quindi Io penso che la cosa principale sia prendere coscienza di questo fatto e attrezzarsi per certamente tappare i buchi dalle tubazioni, questo è fuori discussione, ma per intervenire con tecnologie sia estraendo acqua dal mare, e vi darò un piccolo esempio di così intuitivo, cioè che cosa abbiamo fatto molti anni fa e abbiamo esportato nei paesi arabi? Abbiamo messo dentro un'apparecchiatura molto grande, il ciclo della pioggia, quindi portare il ciclo della pioggia dentro un'apparecchiatura consente di prendere acqua di mare e di tirar fuori acqua dolce. Quindi questo che cosa significa? Significa che quando non piove, diciamo, io posso rimboccare il mio invaso, adesso ragiono diciamo in modo estensivo, intervenendo con un dissalatore. Complementare, cioè le variazioni climatiche e la possibilità che le piogge non siano più equamente distribuite con tecnologie che consentano di fare questo intervento. Io penso che bisognerebbe ragionare in questi termini, non parlare più di chi è responsabile o non è responsabile, tanto se la pioggia viene a mancare nessuno è responsabile di questo, e quindi bisogna prendere atto, acqua ed aria sono due situazioni sulle quali bisogna intervenire con delle tecnologie, questo è ormai un dato insomma, di fatto. È chiaro professore, quindi bisogna vedere al futuro, è inutile stare a rimpallarsi le responsabilità, cominciamo a produrre acqua in modo nuovo, è possibile anche dal mare. Allora io vi do appuntamento a tra poco dopo il giornale radio e continuerò brevemente a parlare anche di acqua. Linea alla regia. Ma cos'è quest'estate? E noi torniamo a parlare di acqua, con Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. Abbiamo sentito il professor Diego Barba, docente di impianti chimici e processi integrati acqua energie presso l'Università Campus Biomedico di Roma. Abbiamo sentito è possibile estrarre acqua potabile dal mare, insomma bisogna andare verso energie alternative e trovare l'acqua dove era inimmaginabile prima. Ermete Realacci. Beh, innanzitutto bisogna usare bene l'acqua che arriva, nel senso che l'Italia non è un paese povero di acqua. Abbiamo quello che ha detto il professore e che avevo detto anch'io prima, cioè abbiamo dei mutamenti climatici in atto che rendono molto più complicata la gestione non solo dell'acqua potabile ma anche del dissesto idrogeologico, di tante questioni. Io ricordo un dato, negli ultimi decenni i ghiacciai italiani si sono ridotti del di un terzo circa. Questo equivale alla perdita di qualcosa come 4 volte l'acqua contenuta nel lago Trasimeno, no? E che quest'anno ci sarebbe stata una questione di emergenza idrica non era noto, non è che io ho i poteri divinatori di Nostradamus, ho presentato un'interrogazione all'inizio di aprile perché era chiaro che siccome pioveva poco e non c'era neve sulle montagne avremmo avuto un problema di acqua. Questo chiama tutti a fare la propria parte, anche i cittadini che possono ovviamente risparmiare l'acqua e tutte le istituzioni a fare la loro parte. Il problema si è concentrato ovviamente su Bracciano perché l'annuncio da parte dell'ACEA di fare un contingentamento dell'acqua, un razionamento dell'acqua a Roma ha fatto più danni delle cavallette a Roma e all'Italia, diciamo da questo punto di vista. La situazione per ora si è risolta, ma la questione delle reti rimane una questione chiave, perché se si perde nel caso di Roma il 44% dell'acqua, in altri casi del nord meno, in altri casi del sud di più, c'è un problema e bisogna che ci siano investimenti seri in questa direzione. Qui tutti devono fare la loro parte, sicuramente anche lo Stato, la Regione, ma il Comune non può tirarsi indietro. Io ho visto le prime dichiarazioni della sindaca Raggi in cui diceva che sperava che si raggiungesse un accordo tra ACEA e Regione, ma l'ACEA è di proprietà del Comune, ha la maggioranza dell'ACEA, il Comune di Roma, se vuole può decidere con la sua maggioranza che gli utili dei prossimi anni siano destinati a rimettere in ordine le reti, quegli utili che derivano dalle tariffe dei romani. Quindi tutti devono fare la loro parte, è una sfida importante di adattamento ai mutamenti climatici, è una sfida che il Paese può affrontare. Professor Diego Barba, andrà da Ermete Realacci, Presidente della Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati, e vi metterete a studiare come affrontare la prossima estate e come affrontare la prossima emergenza idrica? Beh, la prossima estate è un po' difficile. Io, il mio ragionamento è strategia di medio-lungo termine. Queste tecnologie di cui parlo richiedono, diciamo, a parte un consenso politico che inevitabile perché gli investimenti sono importanti, ma soprattutto richiede, diciamo, il tempo, quindi vedere il problema dell'acqua con questa urgenza non fa bene a nessuno. Allora io vi dico un paio di altre cose. Per esempio, diciamo, da studiare ci sono eventualmente un sistema di dissalazione. In alcune zone d'Italia già si fa, in Sicilia esistono alcuni dissalatori al servizio di impianti industriali, quindi esportare, diciamo, anche in altre aree, diciamo, la dissalazione per scopi acqua potabile è un problema assolutamente possibile, è un problema di investimenti ed è un problema di energia, cioè bisogna saper utilizzare energia, diciamo, di scarto per fare acqua dissalata. Questo è un punto centrale, adesso non abbiamo tempo di parlare, però voglio darvi anche un altro esempio. Oltre alla dissalazione, diciamo, siccome i mutamenti climatici determinano un forte cambiamento del regime piovoso, cioè adesso si parla molto di questa brutta parola di bombe d'acqua, no? Cioè la pioggia invece che in modo distribuito viene in modo molto concentrato. Bisogna pensare di catturare anche le bombe d'acqua. Oggi noi perdiamo molta acqua perché la lasciamo attraverso i regimi torrentizi andare al mare. Sul fiume Cecina, tempo fa, ho visto un impianto dei romani, diciamo, che catturavano, diciamo, le esondazioni del fiume Cecina collettando, diciamo, quest'acqua, diciamo, torrentizia in laghi in prossimità del mare. Ecco, questo è un altro punto sul quale bisogna riflettere, cioè le tecnologie per fare, diciamo, acqua umana, diciamo così, quando non viene dal cielo, sono possibili, esistono, occorrono forti investimenti, ma soprattutto occorre un consenso che è, di tutte le parti politiche, perché la decisione di prendere decidere investimenti di lungo termine, si risolve per l'anno prossimo questa cosa, di lungo termine bisogna prenderla, diciamo, con un consenso totale. Allora, diciamo, le parole chiavi per quello che mi riguarda sono tecnologie di dissalazione, tecnologie di riuso delle acque e cattura delle acque torrentizie, diciamo, che saranno sempre più abbondanti e concentrate nel tempo in Italia, e di regimi torrentizi sui quali intervenire ce ne sono molti in Italia. Allora ringraziamo il professor Diego Barba, docente di impianti chimici e processi integrati acqua energia presso l'Università Campus Biomedico di Roma, e diamo il saluto a Marco Cannavicci, psichiatra e criminologo, che è stato consulente del Corpo Forestale dello Stato e ha studiato a lungo il problema dei piromani. Qui apriamo un altro fronte, chiedo anche a Ermete Realacci di stare un attimo con noi proprio per poi parlare anche di questo argomento, perché abbiamo visto in questa lunga estate torrida molti roghi vengono appiccati dai piromani, e vogliamo capire chi sono queste persone, cosa si nasconde dietro un piromane, perché per noi è incomprensibile come si possa dare alle fiamme un'intera foresta, un bosco. Marco Cannavicci, lei ha studiato il fenomeno, chi è il piromane? Buongiorno a tutti. Il piromane possiamo dire che nell'ambito degli incendiari è la percentuale minore, 8 incendi su 10 non riconoscono un movente psicopatologico, ma riconoscono un movente razionale o di tipo economico, o comunque un vantaggio personale per chi appicca l'incendio. Il piromane, strettamente parlando in senso psicopatologico, non è attivo solo d'estate, è attivo tutto l'anno, attraverso l'accensione di piccoli fuochi limitati e di scarso danno, soprattutto perché quando l'ambiente non è recettivo il fuoco dura poco e si spegne da sé. Quando d'estate trova un ambiente molto ricettivo al fuoco, come in questo momento è dato dalla natura particolarmente secca, arida e quindi con facile infiammabilità, ecco che quella sua attività può espandersi e diventare un danno maggiore. Quello che è l'obiettivo del piromane è la sua ebbrezza, il suo piacere nel vedere il fuoco che divampa e non ha nessuna idea dell'oggetto che si distrugge o del bene che si distrugge, quindi lui non ha consapevolezza del danno, ha semplicemente il desiderio del piacere. Però lei mi dice che l'80% degli incendi appiccati non sono appiccati da piromani psicopatici, cioè c'è un motivo economico. Buona parte degli incendi dolosi che si sono verificati hanno un movente economico di vario tipo e quindi non sono. Quali sono imputabili. Questi moventi? Allora, il primo movente è sicuramente di tipo economico, per cui c'è qualcuno che ne trae vantaggio e o lo fa lui l'incendio o comunque diciamo lo delega a qualche organizzazione o qualche persona che, essendo all'interno del mondo criminale, perché gli incendiari in genere appartengono al mondo criminale, hanno familiarità con gli inneschi a tempo, con gli inneschi che possono non lasciare traccia, con gli inneschi che si diffondono molto facilmente e soprattutto in una modalità per cui lui appicca il fuoco e scappa, mettendosi in salvo anche dal punto di vista dell'imputazione, perché nel momento in cui divampa il fuoco lui è da un'altra parte, contrariamente invece al piromane che appicca il fuoco e sta lì, partecipa allo spegnimento, chiama anche i vigili del fuoco perché il suo obiettivo è vedere il fuoco, non scappare. In più c'è anche un altro dato di cui non parla quasi mai nessuno, è che è uso secolare dei contadini bruciare la ripulitura dei campi, le sterpaglie, le stoppie, dando fuoco. E questo avviene principalmente in due periodi dell'anno a cui corrispondono delle feste religiose dove si usa appunto appiccare il fuoco. Ecco, il contadino lo fa soprattutto per ripulire e soprattutto per ridare, attraverso i minerali liberati dal fuoco, una energia e una, diciamo, un valore al terreno. E solo che quando c'è una normativa che gli impedisce di questa attività, lui non rimane più lì come una volta a gestire il fuoco, ma picca il fuoco e va via, cioè in qualche modo lascia che il fuoco si divampi da sé e più delle volte nessuno lo controlla e quindi si espande e fa danni. Allora ringrazio Marco Cannavicci, psichiatra e criminologo, che è stato anche consulente del Corpo Forestale dello Stato e ha studiato a lungo il fenomeno dei piromani negli USA ma anche in Italia. E noi vediamo quali sono un po' le tendenze di quest'estate. Vediamo che cosa sta succedendo sotto l'ombrellone. Passiamo a quello che succede in vacanza, perché abbiamo visto che in questi villaggi vacanzieri, insomma, non c'è poi tanta pace. Molto spesso, anzi, ci sono scioperi e ci sono anche purtroppo terremoti, come è successo a Kos. Allora, ne parliamo con Elena Maria Vanelli, funzionario nazionale FISAS CAT, Federazione Italiana Sindacati Addetti Affini Turismo della CISL, che ha seguito una vertenza di questi giorni ed è la vertenza Valtour. Gli animatori dei villaggi vacanze hanno scioperato. Per quale motivo, Elena Vanelli? Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Ma hanno scioperato perché noi, insieme a loro, pensiamo che si possa fare del business nel turismo senza non applicare, senza evitando sostanzialmente delle regole comuni come l'applicazione del contratto nazionale o come, cosa importantissima, l'applicazione del diritto di precedenza per persone che da anni lavorano esclusivamente la stagione in un determinato villaggio. Il contratto nazionale del turismo prevede questo diritto, anche perché è un contratto costruito proprio sul settore, sulle particolarità e specificità del settore. In questi villaggi spesso noi pensiamo che i lavoratori hanno tutti lo stesso datore di lavoro, In verità non è così, perché sono gestiti nella maggioranza dei casi da cooperative che applicano contratti minori, che ad esempio non prevedono, tra le altre cose, questo diritto di prelazione, che è un diritto fondamentale soprattutto in zone dell'Italia dove il turismo è l'unica occasione di lavoro, magari per tutto l'anno. Quanto guadagna un animatore di un villaggio? Ma guardi, più che gli animatori, che spesso non sono neanche lavoratori dipendenti, sono in contratti di collaborazione, in stage, attraverso, insomma, sono, gli viene applicato questi tipi di forme di lavoro spurio. Noi quelli che più, come dire, rappresentiamo sono proprio i lavoratori del villaggio, chi fa le pulizie, chi fa da mangiare, chi gestisce il giardino. Un villaggio è fatto da un numero, come per tenere bene un villaggio, noi quello è quello che auspichiamo, perché il settore del turismo è un settore fortissimo del nostro paese. Però insomma, c'è questa abitudine a fare un business un po' da furbi, no? Utilizzando, sfruttando un po' i lavoratori. Quindi è uno dei settori, tra l'altro, con i salari più bassi, spesso si lavora part-time. Spesso ci lavora qualche mese all'anno, parliamo di qualche migliaio di euro in tutta una stagione. Quindi stiamo parlando di salari molto bassi. E com'è andato questo sciopero Valtour? C'è stato uno... Guardi, noi, proprio perché ci teniamo molto, che noi sappiamo che finché c'è l'impresa c'è il lavoro, quindi ci teniamo, non ci piace fare come dire, azioni senza avere un minimo di senso sociale anche, no? Di dove le facciamo. Noi abbiamo indetto degli scioperi, uno stato di agitazione nazionale in Valtour, e poi degli scioperi che verranno e vengono gestiti a livello locale. Questo perché, a seconda di quanto Valtour non applicherà le regole che sono comuni a tutto il settore, territorialmente le nostre strutture indiranno lo sciopero. Al momento alcune strutture l'hanno fatto, devo dire che è andato molto bene, proprio perché, ripeto, qui ci sono occasioni uniche di lavoro per i dipendenti. Allora, ringraziamo Elena Maria Vanelli, funzionario nazionale FISAS CAT, Federazione Italiana Sindacati Addetti a Fine Turismo, che ci ha parlato della sentenza Valtour, della vertenza Valtour, scusate. Sappiamo che c'è stato uno sciopero, c'è uno stato di agitazione, abbiamo sentito proprio dei lavoratori, non ci sono solo gli animatori in un villaggio, ma c'è chi fa le pulizie, chi è il cuoco, ma ci sono anche gli animatori, e noi con un'animatrice abbiamo il piacere di parlare questa mattina. Luciana Martini, cantante del Sea Club Franco Rosso Portobello Royal a Kos, proprio per parlare del fatto che non c'è pace in vacanza. Luciana, tu hai vissuto il terremoto, che cosa Buongiorno è successo? Elisabetta. Che cosa è successo a Kos? Intanto ti salutiamo e ricordiamo che sei stata una cantante anche con una carriera qui in Italia, facevi la cantante a Tappeto Volante, la trasmissione TV di Rispoli, ma adesso che fai la cantante al Sea Club Kos, tu sei arrivata a Kos e subito dopo c'è stato il terremoto. Come ti sei svegliata quella mattina? Considerato che io vengo dall'Aquila, insomma, è stato un déjà vu terribile. Beh, insomma, è stato un risveglio nel cuore della notte non proprio piacevole, Elisabetta, davvero. Chiaro, io avevo comunque un feeling con il terremoto diverso rispetto a tutti gli altri ragazzi che si sono ritrovati, insomma, in un incubo all'improvviso. E un incubo che, a mio avviso, è stato un po' troppo montato dai media italiani, ma non solo. Questa mattina parlavo proprio con dei tedeschi, i quali hanno tentennato sino all'ultimo nel venire o no a Kos, perché le immagini che sono state proposte erano le più drammatiche, insomma. Ma il sisma in sé è stato molto circoscritto, gli edifici che sono crollati erano comunque molto molto vecchi, per il resto le strutture recettive, alberghiere, ma anche gli appartamenti che vengono affittati durante l'estate non hanno subito un minimo, nessun tipo di danno, quindi neanche crepe minime, insomma, quindi la situazione è magnifica. Quindi diciamo, tu non hai avuto, insomma, essendo una persona che viene dall'Aquila, non hai avuto così tanta paura? O comunque il terremoto fa sempre paura, no? Io ne ho vissuti alcuni come inviata di Radio 24 e devo dire che quando c'è la scossa, c'è la scossa. Ma assolutamente. Io sono sempre convinta di una cosa, che ti uccide il fuoco, ti uccide l'acqua, ma il terremoto fanno più danni le strutture dove uno abita che non il terremoto in sé, a meno che non si apra la terra. Elisabetta, convieni con me che è più un impatto, insomma, come dire, di percezione, che ti lascia un po' spaesato, però in sé, se uno si trova a dormire o in strutture sicure costruite secondo alcuni criteri, insomma, il terremoto è difficile che possa ucciderti. Luciana, però la paura te la scatena. Certo. Luciana, allora parliamo invece di quello che è una vita in un villaggio da parte dell'animatore. Tu sei in un villaggio per un tot periodo all'anno, canti, sì. No? Fai la cantante, la tua professione è quella lì, quindi ti trovi anche a gestire le persone che arrivano, ci sono i clienti, quelli un po' rompiscatole magari, oppure ci sono quelli lì simpatici. Ecco, quando arrivano, tu già li inquadri, oppure ci sono quelli che ti chiedono, non so, le canzoni preferite? Ecco, com'è? Io in questo momento mi trovo a vivere una situazione lavorativa molto particolare, perché il mio resort, questo Sea Club Franco Rosso, è un resort internazionale. Solitamente Franco Rosso ha dei Sea Club frequentati solo da italiani, quindi è molto più semplice anche poter soddisfare qualche richiesta musicale. Qui è un po' più complicato perché ci sono francesi, spagnoli, inglesi, quindi mi trovo anche a dovermi confrontare con un repertorio completamente diverso. Facciamo mappatura dei turisti. Allora, chi sono più rompiscatole? Gli italiani, gli inglesi, i francesi? Grazie. Siamo noi, più rompiscatole siamo noi. Forse abbiamo delle esigenze più alte, ecco, chiamiamo così, no? Ci piace il bello, ci piace che le cose siano tutte perfette, quindi indugiamo un po' nelle richieste, anche a volte un po' frivole, insomma. C'è lo yogurt alla fragola perché non c'è quello alla banana, ecco, volevo quello alla banana, invece c'è solo quello. Un po' fissati con il cibo, no? Gli italiani, deve essere tutto perfetto, la pasta per cotta in un villaggio deve essere la pasta assolutamente al dente. Sì, soprattutto, che ne so, se si trovano alle Maldive e non hanno la pasta fatta in casa e al dente, o uno spaghetto alle vongole, si va in crisi esistenziale. No, vabbè, questo è un modo come un altro per scherzare, insomma. Però invece, sì, a volte non si godono la vacanza per quello che dovrebbero godersi, che ne so, prendono piglio per sciocchezze che, insomma, a volte ai miei occhi e ai nostri occhi risultano veramente sciocche, ecco, mi ripeto. Invece quelli lì che si adattano di più, quali sono i turisti che sono più easy going? Credo sicuramente gli inglesi sono abbastanza easy, ma anche i tedeschi, i francesi ci somigliano un po', devo dire la verità, però ecco, i tedeschi, gli inglesi, i belga, gli olandesi sono abbastanza easy, lo sono proprio, sì, anche se li vedi a livello esteriore sono molto easy, mi permetto di fare questa battuta. Senti Luciana, ma invece la vita in un villaggio è difficile per una persona lasciare tutto, la sua famiglia, le sue cose, e vivere 6 mesi lontano da casa, lontano da tutto, conoscendo, facendo squadra con gli altri animatori, ma sicuramente anche cambiando sempre persone, quindi è un po' nevrotica questa situazione, no? Ogni settimana ti cambiano le persone davanti? Se mi avessi fatto questa domanda a 20 anni, quando avevo 20 anni, ti avrei detto che sarebbe, cioè, che è una vita entusiasmante, poiché comunque è vero che cambiano le persone, ma da queste persone apprendi molto e comunque cresci anche nella vita di comunità che si crea comunque fra gli animatori, perché poi comunque siamo insieme 24 ore su 24, esclusa la notte quando si va a dormire, però è un contatto, si crea veramente una famiglia. Quindi a 20 anni io ne sarei stata entusiasta, adesso lo sono ugualmente, con delle remore normali, insomma, di chi ha superato abbondantemente i 40 e ha degli affetti consolidati in Italia, insomma aveva qualche cosa che ha lasciato importante. Un po' anche la tua carriera, no? Da cantante. Senti, io lo so che è mattina e che quindi la voce è un po' addormentata, forse un po' bassa, visto che tu sei un contralto. Però un accenno della canzone che tutti quanti ti chiedono, non ce lo puoi fare così? Beh, se mi trovo in un resort internazionale, quale canzone potrei cantare se non Volare? Vabbè, penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu, poi d'improvviso venivo dal vento rapito. Eccetera. Allora, insomma, c'è da sentirti lì on stage, perché poi tu canti per molte ore al giorno, quindi è uno sforzo bello intenso per la voce. Ringraziamo allora Luciana Martini, ricordiamo, cantante del Sea Club Franco Rosso Portobello Royal Lacoste, ma anche è stata protagonista del Tappeto Volante di varie trasmissioni televisive. Grazie Luciana e buone vacanze, anzi insomma buon lavoro per te. Buon lavoro e noi diamo la linea alla regia. Ma cos'è quest'estate? Sotto il sole, sotto il sole, dirigione, dirigione, quasi quasi mi prendo e non ci penso più, e non ci penso più. Faccio schiaffi, faccio schiaffi con le onde, con il vento le prendo come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te. L'estate cafona, chi si ribella all'estate cafona? Ci sono comportamenti incivili, la turista che versa olio nel mare in Sardegna, gli stranieri che si tuffano dal ponte o a Venezia o sporcano le spiagge, ma anche ci sono i salvagenti, t-shirt, costume, l'estate del fenicottero. Ne parliamo con Lia Celi, giornalista e autrice satirica su carta, in rete e TV. Lia, quali sono le tendenze di quest'estate e poi come si combattono i cafoni in spiaggia? Diciamolo. Intanto buongiorno a tutti, in bocca al lupo per questo tuo inizio d'estate. Elisabetta, ti ringrazio. Guarda, io ho letto questo mitico, ormai mitico articolo di Selvaggio Crelli in cui fotografa l'estate del fenicottero rosa e le tendenze insomma di questa estate cafona, però no, devo dire, ho già abbastanza anni sulle spalle da ricordarmi che l'estate è sempre stata un po' il palcoscenico del cafone, un po' è anche abbastanza inevitabile perché, come posso dire, l'estate, lo svestirsi, il caldo tira fuori un po' il lato un po' bambino, un po' ludico di tutti noi, no? Allora mi fanno un po' tenerezza i signori e le signore che in acqua gonfiano fenicotteri gonfiabili, vanno a cavalcione degli unicorni, insomma perché no, siamo vestiti e seri tutto l'anno, perché non concederci queste cose un po' da bambini? Fra l'altro io devo dirti che quando vedo tutte le cose che ci sono per i bambini adesso, compresi gonfiabili da spiaggia, penso, ma porco cane, perché non c'erano quando ero bambina io negli anni 70-80, che c'erano quattro altalene arrugginite e basta, io ho un bel salto gonfiabile non farei anche adesso. Quattro racchettoni e quattro altalene arrugginite, no? Ma tutto sto ben di Dio, dov'era? Allora lo recuperiamo con un po' di ritardo, facendo anche la figura dei cafoni da spiaggia, beccandoci gli strali dei villeggianti più raffinati, ma Dio mio, insomma, perché no? Sì, ma bene, secondo me. Hai visto che adesso ci sono tutti gli stabilimenti che per attirare i bambini hanno il jumping, hanno l'altalena, poi però succedono questi drammi familiari perché i bambini litigano tra di loro, interviene il bagnino, poi arrivano i genitori, insomma si litiga anche per un jumping oggi. Sì, ma guarda, si trasferisce sulla spiaggia lo stesso ambiente simpatico, carino e disponibile che c'è davanti alle scuole, insomma siamo sempre uguali, inverno e estate, siamo un po' meno vestiti d'estate, ma la dinamica è sempre quella. Poi sai, l'offerta dei bagni poi è sempre più varia, no? Pare che in questo famoso bagno di Chioggia c'è anche un bel duce gonfiabile su cui saltare sopra, insomma capisco che i villeggianti si litighino queste attrazioni che appunto non c'erano una una volta, insomma, però non credo che l'estate, come posso dire, metta in evidenza la cafonaggine, una cafonaggine che probabilmente nel resto dell'anno è semplicemente più nascosta sotto i vestiti, nascosta dietro le scrivanie degli uffici, insomma. Poi devo dirti, io ho un palcoscenico abbastanza particolare, perché io abito a Rimini, che è una città dove si villeggia e si vive. Diciamo che noi riminesi, quando andiamo in spiaggia, incontriamo il nostro capo ufficio, il nostro vicino di casa, non possiamo permetterci troppe stupidaggini che ci verrebbero rinfacciate con molta crudeltà durante l'anno. Quindi devo dirti che, nonostante Rimini sia il tempio del divertimento estivo, tutto sommato siamo abbastanza seri, insomma, rispetto ad altre spiagge dove appunto impazzano queste mode di sesso facile, gli accoppiamenti in pubblico, i fenicotteri rose, eccetera. Devo dire che siamo abbastanza moderati, stranamente. Però le tendenze negative, i tatuaggi, no? Le panciotte così esposte in bella vista, le signore che magari non si accorgono di avere una certa età e ostentano un topless che magari forse sarebbe meglio ma non magari, ostentare. Magari, no. In realtà il topless è tornato coperto, cioè una delle cose che non è tornata degli anni Ottanta è il topless. Il problema adesso, diciamo, è il lato B più che il topless, esposto senza pudore, quindi se, diciamo, la gravità diciamo che mostra tutti i suoi danni nel retroscena, diciamo, piuttosto che il topless, che negli anni Ottanta era ancora, come dire, un simbolo di liberazione, no? di trasgressione. Invece adesso abbiamo ancora questi perizomi terrificanti che non perdonano niente, nemmeno ai ventenni, insomma. Io però devo dirti che sono abbastanza tollerante con l'umanità, insomma. Tu sei tollerante, cioè questa cafonaggine che si vede in spiaggia tu la tolleri tranquillamente, perché immagino anche a Rimini arrivino dei soggetti, no? Abbastanza curiosi magari. Ma devo dirti, la cosa più intollerabile, più che le villeggianti, la noto nei baristi, nei gestori dei locali sulla spiaggia, perché adesso la musica, la più varia, ti invade ovunque, perciò tu sei sulla spiaggia, hai la musica a tutto volume dei bar del lungomare che si incrocia con quella dei Ciringhito che stanno a pelo d'acqua, no? Tu ti trovi lì in mezzo e sei come l'omino dell'urlo di Munch, perché hai ondate di musica latina da una parte e dall'altra ti arriva la disco anni Ottanta, e quello è terribile, abbastanza alienante. Credo che sia uno dei dati più fastidiosi, almeno per me, di questa estate 2017. Il fatto che si è sdoganata la musica e non si riesce a sentire intanto il rumore del mare, che insomma sarebbe anche bello sentire, e magari mettersi sotto l'ombrellone a leggere un libro o il giornale, una cosa che aspettiamo per tutto l'anno. Resta con noi. Alla fine anche l'urlo dei bambini dell'ombrellone vicino è quasi consolante, più umano, va rivalutato. Sì, anche se urlano un po' troppo i bambini, non si sa perché. Noi, le nostre generazioni, i nostri genitori ci picchiavano se urlavamo, adesso c'è l'urlo selvaggio del bambino. Resta con noi un attimo, Lia, perché abbiamo in linea anche Federico Angarano, testimone al social dell'estate romagnola. Che è successo, Federico? Tu e la tua ragazza, credo, siete andati a Rimini proprio, se non sbaglio, e avete avuto una vacanza pagata, però l'avete pubblicizzata sui social, è così? Sì, buongiorno innanzitutto. È proprio così, noi abbiamo avuto una vacanza pagata dalla colazione alla discoteca, insomma, quindi da mattina a sera. In cambio il nostro compito, il nostro lavoro era quello di documentare tutto sui social, attraverso foto, video, dirette, sia su Facebook che su Instagram. E questo dove avete fatto questa vacanza? Tra Rimini e Riccione, quindi sulla Riviera. Quindi stiamo proprio in Riviera come gli Acieli. Ecco, però voi non vi siete sentiti in imbarazzo, magari c'era qualcosa che non vi piaceva, però poi alla fine non ne avete potuto parlare, avete dovuto dire che tutto era bellissimo. È stato tutto bellissimo. Devo dire che in realtà, per fortuna, non ci sono state cose che non ci sono piaciute. Cioè, anzi, ripartiremo domani stesso, perché comunque è stata una bellissima vacanza, sia dalla qualità dei posti, del cibo, ma anche dall'accoglienza che abbiamo ricevuto dai vari gestori di ristoranti, locali. insomma, ma questa è cosa... difficile trovare questa... qualcosa che non ci è piaciuto. Questa cosa ve la siete inventata voi? Siete andati alla ricerca di questi posti, di questi ristoratori, di questi albergatori, oppure è stata una cosa che è un pacchetto che vi è stato offerto? E poi quali sono stati, dove siete stati praticamente? Rimini, Riccione, quanto è durata la vacanza? Sì, no, è diciamo un pacchetto, o meglio una campagna di marketing, possiamo chiamarla così, che era già stata creata ad hoc proprio per valorizzare comunque la Riviera da Confcommercio e altri partner. Ci hanno contattato, abbiamo diciamo superato una selezione su più di 10.000 candidature, questo attraverso un video di un minuto. E alla fine siamo partiti. La nostra vacanza è durata 10 giorni e ora ci sono già altre persone che continuano a fare lo stesso ruolo che facevamo noi, insomma. Quindi voi vi siete candidati con la Confcommercio e cercano coppie, c'è un limite di età, cioè beh, certamente sì, bisogna essere giovani e ben prestanti, insomma, belli palestrati. Non per forza belli palestrati, però diciamo perlomeno simpatici. E beh, dinamici. Io ho visto le foto, però no, con la tua ragazza che faceva la giravolta, la candela, la foto, tutti voi sorridenti, tutti glamour. Sì, vabbè, diciamo, comunque c'è un limite di età, dai 18 ai 30 anni era il massimo di età. E, ovviamente bisogna essere attivi sui social e quindi anche abbastanza attivi, perché i ritmi sono abbastanza stressanti, tra virgolette, nel senso che comunque si va a dormire sempre tardi, ci si sveglia presto, ci sono tante attività da dover documentare, da vedere. Quante foto su Instagram e su Facebook, immagine, su Twitter hai messo in questa vacanza? Ma Twitter non l'abbiamo utilizzato perché non lo prevedeva il format. Abbiamo utilizzato Facebook e Instagram e erano un minimo di tre post per ogni social. Però noi sinceramente a volte abbiamo anche postato più di tre, a volte siamo arrivati anche a 4-5 al giorno per ogni social. Quindi insomma la cosa fondamentale era farsi le foto, poi dopo potevate bene o male divertirvi, però il tempo stringeva perché dovevate poi immagino andare in quel posto, poi in quel posto, sì, poi in quel posto, no? Avevate esatto. Tutto uno... Sì, esattamente, noi avevamo proprio un planning, quindi una serie di posti che dovevamo visitare a un tot orario e si trattava non solo di foto, anche di dirette, video, comunque panoramiche 360 gradi, tutto ciò che può valorizzare il locale, il posto che stiamo visitando. Ma tu lo rifaresti magari, che ne so, in Puglia, in Sardegna? Certo. Cioè tutto sommato vale la pena fare una vacanza gratis e lavorare un po' sui social, ecco, questa è la sostanza. Sì, sì. Per me diciamo che comunque lo utilizzo giornalmente anche per i miei scopi personali, mettiamola così, non è un peso, è ovvio che magari se non si è social dipendenti, diciamo così, può risultare un po' difficoltoso. Ma però... quanti amici hai su Instagram e su Facebook? Allora, su Facebook ne ho più di 2.000, su Instagram invece l'ho messo in realtà da meno di un mese, quindi comunque non ho tantissimi follower, mentre la mia ragazza comunque ne ha più di 2000, ne ha sui 2000, quindi ne insomma, un po' vi compensavate. Sì, vi compensavate. Allora ringraziamo Federico Angarano, testimone social dell'estate romagnola lì a Celi. Abbiamo sentito, quindi c'è questo nuovo modo di fare vacanze, devo dire la Riviera è sempre all'avanguardia in Italia per il turismo. In questo però fa coppia con la Costa Azzurra, che quest'estate ha pagato delle modelle praticamente per fare quello che... Vabbè, questo è un po' più casareccio. Per esporsi sulla spiaggia, quindi con vacanze pagate, per così migliorare il panorama, che è una località frequentata da turisti ricchi e danarosi che così insomma hanno diritto anche così... il loro occhio vuole la sua parte, evidentemente la mercanzia era un po' così diminuita ultimamente, quindi i giovani e belli sono sempre la miglior forma di attrazione, più dei gonfiabili, più dei chiringuitos, insomma il fattore umano, in particolare giovane e bello, va usato strategicamente, insomma, lo sappiamo noi, una volta era gratuito, ma adesso in pratica sì, perché comunque come sappiamo gli influencer farebbero comunque la stessa cosa anche stando a casa, fotografando quello che mangiano, dove vanno, quindi... Sì. Farlo in vacanza è unire l'utile a un'abitudine così inveterata. Poi diciamo che questo è un po' fatto in modo casareccio, mentre magari in Costa Azzurra con le modelle, no? Però questo magari avvicina più tutti quanti, no? Ad andare magari in Riviera. Allora diamo la linea alla regia e ci risentiamo a tra poco. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta... Ma cos'è quest'estate? A cavallo di quest'onda, sballottato da sponda a sponda, inseguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Luce rossa, squalo in vista, nella mischia sono surfista, pista fuori dai coglioni, sulla tavola da leoni, tra campioni e campionatori, buonanotte ai suonatori, iri iri, ari oh, dentro all'acqua segue il flow. Mai quest'onda, mai mi affonderà, gli squali. L'onda, l'onda che affonda. Serena Gallone, istruttrice di SUP. Che cos'è il SUP? È lo stand up paddle. Allora, siamo in spiaggia, l'abbiamo visti, sono queste tavole da surf con i remi, c'è una persona che sta in equilibrio e cerca poi di sfidare anche un po' le onde quando sono avanzati, insomma, quando c'è un livello avanzato di questo sport. Intanto noi pensiamo di prendere questa tavola per la prima volta, di mettersi in piedi su questa tavola, di metterci in piedi su questa tavola, di avere questi remi e di cercare di stare a galla. Cosa succede, Serena Gallone, istruttrice di SUP? Buongiorno a tutti. Sì, lo stand up paddle, detto in Italia SUP, in verità in inglese, in americano sarebbe SUP, detto più correttamente. Ma noi siamo un po' matriciana. Giusto, gli italiani. È una moda, diciamo, che proviene dalle Hawaii, che si è sviluppata poi anche in Italia, anche in Europa, e ha preso molto campo perché è un'attività divertente, è un'alternativa, diciamo, al classico kayak, e ti dà la possibilità, diciamo, di fare sport, goderti il mare da un altro punto di vista, perché tu sei in piedi sull'acqua, quindi hai la possibilità di vedere dall'alto tutto il fondale, soprattutto il nostro Ligure, che è particolarmente bello e variegato. A Bogliasco, in provincia di Genova. Noi dove... siamo a Bogliasco, sì, provincia di Genova, la nostra scuola si è sviluppata qua, dove siamo nati. Sì. È iniziato con un piccolo centro e ora si è sviluppato, insomma, ieri per esempio, che era domenica, siamo partiti dalla mattina con il SUP yoga, dove abbiamo fatto il pienone di iscritti, e poi siamo andati avanti tutta la domenica con varie attività, affitti, abbiamo avuto un'enorme affluenza. Perché si fa anche yoga sul sempre stand up paddle, sì. Sempre stand up oppure anche sempre... sdraiati? È lo yoga, quindi ci sono posizioni da sdraiati, da semi in piedi, adattate alla tavola da stand up paddle. La percentuale, sì, di chi finisce in acqua quant'è in una classe di yoga? No, soprattutto così. All'inizio è alta, diciamo... poi quando ci si fa l'abitudine, insomma, si diventa più esperti. 15 partecipanti all'evento yoga, per esempio, no? 10 che, sì, finiscono in acqua dopo quanti minuti? Primo, penso pochi secondi. Dopo pochi secondi, ecco. Invece, quando si fa lo stand up, quanto bisogna studiare affinché non si cada in acqua? Allora, devo dire la verità che è abbastanza soggettivo, nel senso che soprattutto le ragazze e ovviamente i bambini sono molto portati a non cadere, o se ci cadono per i bambini solitamente per fare i tuffi. Ovviamente se si è molto alti e si ha un peso importante, si ha più difficoltà a rimanere in equilibrio sulla tavola. Quindi è come il pattinaggio generalmente si dice che i piccolini sono più avvantaggiati. Esatto, più il peso è leggero e più, diciamo, non si ha un'altezza troppo alta, più si è avvantaggiati nel mantenere un equilibrio, il baricentro basso, e poi ovviamente seguendo l'istruttore che ti dà delle prime nozioni sia sulla tecnica che sul posizionamento dei piedi, sulla tavola, abbassare il baricentro, quindi piegare le gambe, diciamo che è un grosso aiuto, soprattutto per chi non è acquatico, chi non ha mai approcciato al mondo delle tavole in generale, possono essere quelle da skate, da surf, da snowboard. Ecco, l'istruttore sicuramente è un aiuto importantissimo. Lia Celi, ricordiamo, giornalista e autrice satirica, tu hai mai fatto il SUP, lo stand up paddle? Ma no, guarda, io della tavola ho un'altra concezione, diciamo, non quella dove si sta in piedi sopra, ma quella a cui si sta seduti, ecco, mi duole, ma d'altra parte, come posso dire, sarebbe anche un po' difficile, penso per esempio agli influencer, come fanno a farsi i selfie e a instagrammare o a twittare stati in equilibrio sulla tavola? Questa è un'altra ulteriore specialità che forse Serena dovrebbe aggiungere nella sua offerta, oltre allo yoga, allo stand up, anche il postare, il textare stando in piedi su una tavola, magari su un'onda che si gonfia. Però è il boom. Personalmente continuo a preferire, insomma, i classici passatempi da spiaggia. Mi piace guardare, starei per ora a guardare i surfisti e i tavolisti dalla spiaggia. Abbiamo visto che stanno aumentando, no? Però quelli che fanno SUP o SAP, come dice Serena, no? Questa è una moda che sta dilagando, ha un po' rimpiazzato il windsurf. Perché, Serena? Ma diciamo che, se devo essere sincera, più del SAP, quello che ha rimpiazzato il windsurf negli ultimi periodi è il surf, però ovviamente il surf e il SAP se la giocano. Perché? Perché il windsurf è molto tecnico, quindi hai bisogno di vele, di tanta attrezzatura, se c'è il vento più debole devi aumentare la vela, se il vento è troppo forte devi diminuirla, quindi è un continuo, diciamo che è un po' una scocciatura cambiare sempre l'attrezzatura. Il SUP, hai una tavola diciamo da surf e una pagaia e puoi andare veramente ovunque, ovviamente puoi usarla sia su mare piatto in assenza di vento oppure per i più avanzati sulle onde. Quindi la puoi usare in tante condizioni. È più facile, è più immediato e quindi a tutti dà la possibilità di provare, ecco, di sentirsi surfisti. E poi c'è stato anche la moda del kite, che però sembra il kite surf, che sembra anche qui, no? C'è stato questo boom, però ne vedo un po' di meno di kite surf. Sì, vero, vero. È vero? Sì, perché? Sì. Perché è molto economicamente impegnativo, un kite? Considera sì, che già il kite aveva in qualche modo sorpassato il windsurf, già si aveva avuto questo passaggio dal windsurf al kite, che comunque è già più essenziale, una tavoletta piccolina, un aquilone, una vela e basta. Ora sia il SUP che il surf hanno rimpiazzato praticamente totalmente il windsurf, almeno per quanto riguarda le nostre zone della Liguria, dove non c'è tanta presenza di vento, ma invece ci sono assolutamente buoni posti dove godersi un giro in SUP, oppure ci sono anche buone onde per fare surf, e noi come scuola offriamo ovviamente tutte e due le possibilità, sia scuola surf sia scuola stand up paddle. Allora abbiamo Claudio dalla provincia di Pordenone che ci vuole raccontare invece la sua esperienza vacanziera. Buongiorno Claudio. Claudio? Pronto? Sì, pronto Claudio, lei in linea. Ecco. Ci vuole raccontare, sì, la sua esperienza. Qual è la sua esperienza? Ha inventato un'applicazione dove si possono cercare le persone che hanno voglia di condividere percorsi in bici, a piedi o altro. Che cosa vuol dire? Ecco, devo dire che non è stata la mia invenzione, ma di un mio collega istruttore di Nordic Walking, che ha notato assieme a me e un'altra ragazza che è con noi, che molta gente che ha voglia di camminare non trova compagnia o non sa dove andare. Ha detto: perché non facciamo un'applicazione con la quale appunto uno o trova compagnia, in pratica trova persone con cui andare in giro, oppure se è solo e ha una bella idea dice: io vado a fare un giro in Cima Manera a Piancavallo, chi viene con me? È nata da un mese e è un notevole successo, perché siamo andati incontro proprio alle esigenze delle persone che vogliono praticare sport, giustamente in provincia di in provincia di Pordenone, no? Quest'app sì, è già è già utilizzata in tutto il Friuli, sta andando verso il Veneto. Ci sono arrivate notizie di persone che hanno detto che vanno da Piacenza a Genova sulla Postioma e che cercano compagnia, da Bergamo e così via, insomma. Come si chiama l'app? Blawalk. Blawalk, io metto l'app e a seconda di dove sono, magari un giorno in tutta Italia, posso decidere di andare a fare trekking anche da sola perché incontrerò degli amici con cui faremo trekking insieme, o magari invece condividere un percorso in bicicletta, questo no? Certo, certamente. Allora ringraziamo allora Claudio della provincia di Pordenone e vediamo come lì gli italiani sono sempre degli inventori, no? Inventarsi anche un'app per facilitare, non solo per prendere la car to go, ma anche per andare in montagna a passeggiare, quindi è una buona idea. Sì, soprattutto in quest'estate che ha come tra delle sue, insomma, tra i suoi stigmi la possibilità dell'incontro con un orso, specie nelle zone alpine, essere in gruppo direi che aiuta, insomma, piuttosto che sperdersi da soli in qualche bosco con il pericolo di un incontro sgradito con il plantigrado, magari se si è in gruppo si riesce, insomma, si hanno più possibilità di sopravvivenza, ecco, quindi quanto mai utile e opportuna, insomma, questa app che dimostra appunto la facilità, il genio italiano nell'affrontare, nel trovare dispositivi per superare anche così queste situazioni nuove che ci propone, insomma, la natura. E c'è poi un radioascoltatore che ci scrive al 349-238-6666, Fabio, che dice: dove c'è il vento vince il kite, Alto Lago di Como, Sardegna. Le altre cose recenti sono per sedentari con la trippa. Serena, sedentari con la trippa, lo stand up paddle te l'hanno distrutto? Diciamo che, allora, la primo impatto, se si vede uno stand up paddler remare sulla tavola, si dice: ma cosa fa, sto qua il gondoliere? È vero, in verità ci sono delle tecniche avanzate di remata che invece sono molto utili per la forma fisica. Si lavora tantissimo con i dorsali, con gli addominali, con le gambe, quindi ovviamente che un principiante assume delle movenze, diciamo, proprio base, e quindi anche un po' ridicole, buffe. In verità l'atleta avanzato, perché bisogna pensare che di stand up paddle ci sono anche i campionati mondiali, ed è uno sport che si è sviluppato alle Hawaii, quindi insomma anche in condizioni abbastanza impegnative, ci sono un sacco di gare famose molto impegnative. È uno sport a tutti gli effetti, poi può piacere e non piacere, ovviamente, però questo è soggettivo, ecco. Ecco, insomma, la trippa la rimandiamo come offesa a Fabio. Non è possibile. Quante calorie si consumano con lo stand up paddle? Un'ora di stand up paddle, quante calorie, guarda, bruciamo? Nello specifico ti dico, non lo so, più o meno come andare in canoa. Ti posso dire però che io, che sono sia surfista, proprio surf da onda, e ogni tanto uso anche lo stand up paddle sulle onde quando le condizioni sì, sono magari... Sì, siamo in chiusura. Quante calorie? Tante. Allora io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Antonella Migliaccio in redazione, Marco Lombardo, Barbara Bianchi. Vi do appuntamento a domani, linea al giornale radio.